Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti da Nicoletta. Qualcuno di voi sa dirmi quanto cibo ingerisce in media una persona in 80 anni di vita? Potete chiamarmi se sapete la risposta al nostro numero verde 800 24 00 24. Andate a spanne naturalmente, ma sparate alto perché mangiamo parecchio. Amore a prima svista, film del 2001, diretto dai fratelli Bobby e Peter Farrelly. Allora, volete ordinare? Un doppio pizza burger con patatine al chili e formaggio e un milkshake grande al cioccolato. Buona idea. Posso avere la stessa identica cosa? Perfetto, tu mi fai disconnettere. Sai, è bello vedere una ragazza ordinare un pasto vero. Io non vi sopporto quando ordinate un bicchiere d'acqua e un crostino. Fate passare la voglia di uscire con voi. Beh, probabilmente è quello che dovrei ordinare io, no? Ma tanto, indipendentemente da quello che mangio, il mio peso non cambia, quindi me ne frego e mangio tutto quello che mi pare e piace. Sono d'accordo, se riesci a pensarla così, tanto di cappello. Non fare lo strafottente. Aspetta, perché? No, sto solo dicendo che mi sento male per le persone che contano le calorie e quello non è un modo di vivere. Mangiamo tanto troppo, questo lo sappiamo bene, lo sa anche la nostra bilancia, perché la maggior parte di noi mette su almeno 10-15 kg tra i 25 e i 55 anni, ma il più delle volte seguire una dieta non basta, molte diete ipocaloriche falliscono. Vi siete mai chiesti perché? Beh, la ragione è semplice, non è solo un problema di calorie, cari amici, non è solo un problema di quanto mangiamo, ma di che cosa mangiamo. Attenzione, è molto importante, perché se noi metabolizziamo questo concetto e impariamo a tradurlo nella pratica quotidiana, riusciremo non solo a mantenere il nostro peso, a raggiungere il nostro peso forma, ma a vivere meglio e più a lungo. Oggi a nostra disposizione uno dei pionieri europei della medicina funzionale anti-aging, ha lavorato come medico degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea, ha collaborato con la NASA e con l'Agenzia Spaziale Russa, pensate, allo sviluppo di metodologie preventive e terapeutiche per contrastare l'invecchiamento accelerato a cui sono esposti gli astronauti in orbita, ma posso vantarmi dicendo che da noi è di casa, perché oltre a intervenire spesso in trasmissione è un esperto del nostro Daily Lab. Qua in studio con me ho il dottor Filippo Ongaro, che è vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani e Anti-Aging. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti voi. L'abbiamo visto anche in quella fortunata serie televisiva della 7, Dottore in prima linea. Speriamo continui. Speriamo continui. E intanto speriamo che lei torni spesso a trovarci. Allora, dottor Ongaro, è tempo di cambiare ed iniziare a considerare le calorie sotto un'altra luce. Iniziamo a dire che non sono tutte uguali. No, sicuramente non sono tutte uguali. In America in questo tempo parlano proprio di una vera e propria food revolution, una rivoluzione del cibo, no? C'è come l'impressione, io credo che la gente questo lo percepisca bene, che abbiamo perso un po' il controllo su cosa mangiamo e quindi certamente cominciare a capire che la qualità del cibo e le informazioni che il cibo veicola e porta dentro il nostro organismo vanno al di là del quantitativo calorico e quindi la famosa idea che insegnano purtroppo ancora a noi medici che 100 calorie sono 100 calorie punto e basta, non importa se vengono da broccoli o da panettone, e scopriamo che ovviamente non è proprio così. Facciamo un esempio pratico. Beh, l'esempio pratico è proprio quello i che broccoli ho appena e il fatto, panettone. No? Che è il più drastico, però è proprio vero, cioè noi saremmo portati a dire, beh, se ho mangiato un po' di più di un dolce, che ne so, tolgo qualcos'altro, no? Per compensare l'eccesso calorico. Ma in realtà non è così, perché non sono solo le calorie a far differenza, ma è quello che il cibo contiene. Allora, il broccolo contiene tutta una serie di fitonutrienti che esaltano le proprietà salutistiche della cellula, viceversa il pandoro, per carità, se è un'eccezione non succede niente, però è un prodotto artificiale industriale ricco di zuccheri, ricco di grassi, che quindi non porta nient'altro che calorie. Quindi le calorie sono l'energia, però assieme all'energia devono arrivare anche altre cose. Quale libro di dieta stai cercando? Non lo so, qualcosa con un titolo del genere. Chi vuol perdere tutti i chili di troppo senza fare un bel niente? Che ne dici di quello? Ti prego, no. Credevo facessi sul serio. Ed è vero. Non appena avrò finito questo dannato coso al caramello e nocciole. E a proposito di libri, oggi abbiamo 5 copie per voi dell'ultimo libro del dottor Ongaro. Il titolo è accattivante, Mangia che ti passa, edizione PM, un titolo, cari amici, che racchiude una grande verità. Da quello che mangiamo dipende la nostra salute. Nulla di nuovo, mi direte voi, ed è qui che vi aspettavo, perché negli ultimi anni la ricerca è arrivata non solo a provare gli effetti dannosi della dieta, ma soprattutto a provare gli effetti preventivi e perfino terapeutici dei cibi naturali. È stato scoperto come le sostanze contenute nei cibi siano in grado di dialogare con i nostri geni, fino a incidere sul loro modo di comportarsi. È la nutrigenomica. La nutrigenomica è la scienza che studia gli effetti del cibo sull'espressione genica, su come cioè l'informazione contenuta nel DNA viene trasformata in proteine che esercitano un'azione biologica all'interno delle nostre cellule. Il cibo è in grado di modulare il modo in cui il DNA si esprime, come cioè attiva alcuni geni e ne sopprime altri, come si autoripara e quindi come influenza la genesi delle patologie. Dottor Ongar, abbiamo sentito un breve estratto del suo libro in cui appunto lei definisce la nutrigenomica. Lei oggi cercherà di farci mettere in pratica quello che la nutrigenomica ha scoperto e insegna. Sì, perché in realtà la nutrigenomica è un tema molto complesso sul piano della ricerca, ma che forse secondo me semplifica addirittura la prescrizione alimentare, cioè stanno venendo fuori dalla ricerca delle linee guida molto chiare su che cosa ci fa bene e su che cosa ci fa male. Quello che abbiamo appena sentito è un punto importante, perché noi pensiamo, abbiamo sempre sentito che il DNA è una cosa statica, no? Sì. Che è la base dei nostri caratteri ereditari. Questo è vero, però non è il quadro completo. In realtà c'è una componente del DNA che è estremamente plastica e che interagisce continuamente con le informazioni che vengono dall'esterno, con i livelli del nostro stress, con le tossine che arrivano dall'inquinamento e anche con questa massa enorme di cibo che arriva dentro il nostro organismo. Questa parte del DNA è quella più importante, perché questa è quella che si regola, questa è quella che dà a noi il potere di scegliere se vivere bene, mangiare correttamente, quindi esprimere tutte le caratteristiche che mantengono la salute nelle nostre cellule, o viceversa non dare assolutamente una mano al nostro organismo, che a un certo punto comincerà a incepparsi e a far venire fuori delle patologie. Cosa scegliete voi? 800 24 00 24. Oggi, come sempre, voi potrete fare delle domande al nostro ospite, ad esempio potrete chiedergli un parere sul vostro tipo di alimentazione, verificare con lui se le vostre scelte sono salutari, se esistono cibi che possono aiutarvi a stare meglio, a contrastare la stanchezza, facilitare il riposo, ad aumentare le vostre prestazioni intellettuali, potenziando la memoria, l'attenzione o quelle fisiche. So che tra voi ci sono molti sportivi amatoriali, ma oggi anche lui le farà a voi per sondare un po' le vostre conoscenze nutrigenomiche. Nel corso della trasmissione sentirete delle domande che ha preparato per voi il dottor Ongaro, che noi abbiamo naturalmente fatto leggere dal nostro speaker. Voi chiamate subito, perché la risposta corretta vi darà modo di ricevere a casa il libro Mangia che ti passa, autografato direttamente dal dottor Ongaro. E allora vi faccio ascoltare la prima domanda. Cosa manca ai carboidrati bianchi raffinati, che invece è fondamentale per il nostro organismo? 800 24 00 24, la domanda è semplice, non indugiate, non fate passare troppo tempo. Dottor Ongaro, a proposito di tempo, non per tutti passa nello stesso modo. Fino a chiaro. Ciao. Aumarendo, chi dovresti essere? Ma come, non mi riconosci? No. Sono Fabris. Fabris. Sono un po' dimagrito, un po' stempiato, ma sono Fabris. Primo banco a destra. Ma ci provo, tu ci hai avuto un crollo. D'ottavo grado dalla scala Mercalli, però. E dai, non esagerare, eh. Sono anche passati 15 anni, eh. Ma vuoi pure per me sono passati 15 anni, te? Ma lo vedi come sto? Guarda che robetta. Sì, io sto in forma smaglianta, ma te. Guardate com'eri. Guardate come sei. Da pari tu zio. Da compagni di scuola, mai andare alle cene dei compagni di scuola, questa è la prima regola. Dipende da come ci si arriva. Senta, dottor Ongaro, intanto iniziano ad arrivare le domande, le risposte alle nostre domande. La prima di apertura, quanto cibo ingerisce in media una persona che arriva ad 80 anni di età? E stanno già rispondendo anche al 349-238-6666 sulla seconda domanda. Sono preparatissimi. Io devo chiedervi di chiamare l'800-2400-24 perché oggi ci concentriamo sulle risposte che darete direttamente in voce. A proposito di età, c'è un'età biologica ed è un'età anagrafica. È senza dubbio, l'esempio che abbiamo appena sentito è proprio quello, cioè il tempo passa per tutti e il tempo cronologico è uguale per tutti, ma la risposta dell'organismo al passare di questo tempo è assolutamente individuale. Quindi noi parliamo di età biologica e definiamo con età biologica la vera età dell'organismo, che spesso è diversa dall'età cronologica. Questo dipende dalle scelte che facciamo, cioè la potenza delle scelte salutistiche corrette si verifica proprio visivamente nell'età biologica di un soggetto che magari a 60 anni dimostra molti anni di meno di un altro. C'è un modo per così misurare l'età biologica, per capire quanto è in realtà, no? la vita, l'energia degli organi del nostro organismo, non solo una questione di pelle, no? No, non è solo una questione di pelle, anche se anche quello conta, perlomeno per piacersi di più, che è un aspetto fondamentale di un invecchiamento sano e corretto. Però ci sono anche tutta una serie di test che si possono fare in un ambulatorio per verificare, diciamo, lo stato dell'invecchiamento e confrontarlo con l'età cronologica del soggetto. Quindi noi potremmo trovare un soggetto di 60 anni che è 10 anni più avanti nell'invecchiamento biologico oppure 10-15 anni più indietro nell'invecchiamento biologico. E ripeto, questo dipende, non è scritto nel destino. Tornando al DNA, non è scritto nel DNA, dipende da quella parte regolatoria del DNA che noi possiamo stimolare positivamente con le scelte che facciamo. Allora, se volete farvi guidare nelle vostre scelte, perché se non è mai troppo tardi per cambiare, per recuperare, potete chiamare il nostro numero verde. Ma intanto io ho in linea Marco da Roma. Buongiorno Marco, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, come sta? Bene, bene, in mezzo al traffico. Oh, bene, allora noi siamo pronti. Lei vuole fare una domanda, darci una risposta? Io volevo stare con noi così? Guardi, volentieri, soltanto che sto portando dei clienti, faccio il tassista, sto portando dei clienti all'aeroporto, per cui non mi posso intrattenere molto. Va bene. Volevo dare la risposta del cibo che una persona mangia negli 80 anni di vita. Vediamo. Io ho pensato intorno ai 27.000 chili. Dottor Ongaro? Beh, sarebbero 27 tonnellate, non è lontanissimo da quello, un po' di più di così. Marco, grazie, buon viaggio. Trasmissione in bocca al lupo. Grazie, crepi. Abbiamo Gianna che ci chiama da Bergamo. Buongiorno Gianna. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ho 69 anni, sono alta, 1,65 m e peso 55 kg. Io desideravo sapere qualcosa a proposito del cioccolato. So che influisce sull'umore e io, siccome sono spesso depressa, qualche pezzettino di cioccolato sento quasi il bisogno di prenderlo, però sono preoccupata per il colesterolo e l'aumento di peso, naturalmente, perché ci tengo i miei 55 kg. Fa bene, grazie Gianna, lo chiediamo subito al dottor Ongaro. Allora, questo cioccolato dalle mille virtù. Ecco, il cioccolato, signora, tenga presente che è uno di quei cibi che sta emergendo come un cibo con grandi proprietà antiossidante benefiche. Non si preoccupi troppo del colesterolo, si preoccupi invece dello zucchero, e quindi scelga il cioccolato fondente. Il più vicino è al 99-100% di cioccolato, il meglio è, ne bastano delle piccole dosi, ma quello sarà ricco delle sostanze che servono. Viceversa, il cioccolato, diciamo, più ricco di zuccheri, quindi al 50-60%, ovviamente è meno benefico. Allora, mi scrive Silvia al 349-238-6666. Sono ancora Silvia, non posso chiamare, lavoro, sono sovrappeso e vorrei tanto il libro. Allora, chiesto così non possiamo, chiederò al dottor Ongaro di darne uno direttamente e ce lo porta direttamente il dottor Ongaro. Ma quindi Silvia ha assicurato il libro, ma ho letto il messaggio di Silvia ad alta voce proprio per chiarire una cosa. Lei nel suo libro e la nutrigenomica in genere non è una dieta per dimagrire. ma è una dieta per farci stare bene. E applicando un po' i principi della nutrigenomica, molti scoprono che i chili scendono, il peso torna, torna come quando si era giovani o si arriva al peso forma. Quindi è proprio un altro concetto, perché non ci basiamo più sulle calorie, ma sulle proprietà nutrizionali dei cibi, perché parlano un linguaggio con i nostri geni tale da aiutarli a funzionare bene. Assolutamente, penso che diciamo per semplificare il concetto, vediamo la perdita di peso un po' come la conseguenza di una correzione alimentare piuttosto che come l'obiettivo principale. Quindi il peso si perde, però si perde correggendo le problematiche metaboliche a fondo, mentre la dieta ipocalorica, che crea un deficit calorico punto e basta, tende sì a farti perdere peso, magari però non correggendo quelle problematiche metaboliche. Noi sappiamo che c'è un molto frequente effetto io-io, per cui la gente perde, certo, peso, poi lo riguadagna a distanza. Quindi io credo che, anche se il mio prossimo libro sarà una sfida, perché voglio scrivere un libro concentrandomi sulla perdita di peso, ma utilizzando i principi della nutrigenomica, voglio vedere che cosa viene fuori. Però la nutrigenomica fa perdere peso, ma attraverso la correzione metabolica più che attraverso il deficit calorico, punto e basta. Tra poco naturalmente daremo i consigli, no? Nella pratica quotidiana come si fa ad alimentarsi sulla base e seguendo la filosofia, il taglio, l'approccio della nutrigenomica. Intanto abbiamo Paolo che ci chiama dalla provincia di Firenze. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Lei cosa ha mangiato oggi a colazione? Posso chiederglielo? Stamattina ho mangiato yogurt con fiocchi d'avena. E basta. E caffè naturalmente. E caffè naturalmente. Allora, dottor Ongaro, una buona colazione? Beh dai, ce ne sono di meglio, ma ce ne sono anche tante tante di peggio. Quindi direi che è promosso. Il caffè anche, diciamo, non esageriamo con questa cosa che il caffè fa malissimo. Perché il caffè, come il tè verde, è anch'esso ricco di antiossidanti, quindi in quantità moderate, per chi non ha dei problemi, può essere assolutamente usato. Allora Paolo, quindi promosso, vediamo se lei ha da farci una domanda, vuole darci una risposta. Beh, no, più che altro una domanda, che è questa. Di famiglia, come si suol dire una volta, no? Di famiglia siamo tendenzialmente portati ad andare sovrappeso. Lo era mio nonno, lo era mio papà, lo era mia mamma. Mm. E ho un figlio che ha 10 anni e vedo che anche lui sta, diciamo, aumentando di peso un po' troppo in fretta rispetto a quanto rispetto alla sua età. Sì. E quindi chiedevo se magari questa si può già applicare anche sui bambini, questo tipo di nuovo nutrigenomica, diciamo, sì, esatto, che sembra un po' uno scioglilingua, ma Paolo, al di là della parola, è molto semplice. Il dottor Ongaro ce lo spiegherà, ma intanto va bene anche ai bambini? Assolutamente va bene anche nei bambini, perché tanto più nei bambini è difficile applicare un regime di restrizione calorica puro, e quindi è più corretto educarli a mangiare nella maniera giusta. E l'altra cosa, mi raccomando, incentivateli a fare attività fisica, perché nei bambini, in particolare in Italia, è drammatico il livello di sedentarietà e chiaramente anche questo incide sulla tendenza ad aumentare di peso oppure no. Essere e benessere. Nutrigenomica, il nome è difficile, però se noi lo impariamo e soprattutto cerchiamo di capire qual è la filosofia che sta alla base di questo nuovo modo di alimentarci, ci guadagniamo in salute, in longevità, aggiungiamo non solo anni alla vita, ma quella famosa vita agli anni, e riusciamo a prevenire molte malattie, queste famose malattie del benessere. Ecco, potrebbero essere sicuramente prevenute con delle scelte alimentari più intelligenti, cioè dare al nostro organismo la benzina di cui ha bisogno, una benzina che riesca a essere di qualità, perché deve parlare quel linguaggio che piace ai nostri geni. Esattamente. Dottor Ongaro, una descrizione perfetta. E direi che la prima regola molto pratica e concreta è quella di ridare ai famosi macronutrienti, cioè alle proteine, ai grassi e ai carboidrati, il loro ruolo giusto. Andiamo allora. C'è stato nel tempo una eccessiva attenzione nei confronti dei carboidrati, che come tutti sanno sono stati messi alla base della piramide alimentare, senza però far distinzione tra i carboidrati che sono ricchi di fibra e i carboidrati che non lo sono. oltre a questo i carboidrati vanno ridimensionati. Io uso molto un concetto di piatto unico. Se ci immaginiamo un piatto, circa metà di questo lo dovremmo dedicare alle verdure e abbiamo libera scelta su quali utilizzare, soprattutto prediligendo quelle di stagione, quelle fresche. L'altra metà del piatto lo dovremmo ridividere in due parti, in due angoli. Sì. Un angolo dedicarlo ai carboidrati e scegliere quelli più giusti, vedremo dopo se sì. gli ascoltatori indovinano quali sono, sì. e l'altro angolo riservarlo alle proteine di buona qualità, quindi pesce, legumi e carni magre. Allora, visualizzate il piatto anche per oggi a pranzo, potete già applicarlo, sì. anche se non mangiate a casa, se mangiate in mensa, ristorante. C'è un grosso cambiamento, ecco. Il grosso cambiamento è quello che ci muoviamo, ci allontaniamo da un concetto di primo piatto, di secondo, di contorno, dove il primo piatto è un etto e mezzo, il secondo un etto, il contorno 20 grammi. Tutto in un piatto. Rovesciamo il concetto e diamo molto più spazio alla parte di accompagnamento, che è quella ricca di fitonutrienti, cioè alle verdure, e ai due macronutrienti più sostanziosi, cioè i carboidrati e le proteine, riduciamo un pochettino lo spazio. Allora, vediamo intanto come siamo noi con i nostri ascoltatori. Abbiamo Carlo che ci aspetta da Bologna, gli ho chiesto di farmi da cavaliere, adesso lo stavo trascurando. Vede queste donne, Carlo. Ma lei buongiorno. Allora, Carlo. Allora, io dunque ho 44 anni e da 6 anni ho uno stile di vita, diciamo così, un po' legato alla mia attività, perché mi muovo molto tra Bologna e Parma, sono un piccolo imprenditore. A rischio è quella zona, è fantastica, si mangia benissimo. Ah, si mangia, guardi, qualunque bar si ferma, purtroppo si mangia benissimo. Purtroppo, dice Carlo. E allora? E quindi io ho notato... ho un po' pensato che lo stile alimentare possa influire, che negli ultimi tempi soffro molto di afta in bocca. E allora volevo sentire dal dottor Ongaro se eventualmente può essere un segnale, un sintomo legato anche, appunto, visto che si parlava che il fisico risponde magari in maniera diversa, certo. Per quello che brucia, diciamo così, quindi il tipo di alimento che noi buttiamo dentro, se può esserci una relazione, quindi se magari appunto eventualmente gli orari e quello che si mangia possono influire anche su questo tipo di risposta. Grazie Carlo per la domanda e per averci accompagnato, traghettato dopo i mercati e il meteo. Dottor Ongaro, le afte. Beh, c'è una doppia relazione qua nella storia di Carlo. La prima è ovviamente quella dello stress, che notoriamente aumenta la frequenza di questi episodi, di queste afte. Viaggiare, spostarsi continuamente, essere sempre per strada aumenta ovviamente il livello di stress. L'altra può essere sicuramente l'alimentazione. Porrei soprattutto l'attenzione nei confronti del glutine. Attenzione che le afte ricorrenti sono frequenti in quei soggetti che hanno problemi legati al glutine. Quindi una bella dieta di eliminazione e disintossicazione, gliela consiglierei. Andiamo a Sabrina che ci chiama dalla provincia di Latina. Buongiorno Sabrina. Buongiorno Nicoletta, buongiorno al dottore. Buongiorno a lei. Io volevo ringraziarvi perché effettivamente mi è successo proprio quello che avete raccontato. Io ho 38 anni, sì? E da un paio d'anni ho cambiato la mia alimentazione. Ero sempre col naso nel frigorifero, mangiavo molti dolci. E ho eliminato i dolci durante la giornata, faccio un'ottima colazione la mattina, quindi il miele, anche elementi molto naturali, faccio lo yogurt in casa, e faccio dei dolci fatti in casa con le uova del contadino, quindi ho la possibilità, abitando in campagna, di fare queste cose, mangio frutta di stagione e ho cominciato a fare della corsa, quindi sono dimagrita 15 kg nell'arco di un paio d'anni, quindi anche lentamente, mantenendo anche si dice, a quest'età ci sono dei problemi anche per quanto riguarda la rilassatezza del corpo. E nonostante questo io sono d'accordo con il medico perché sono proprio l'esempio vivente. Allora, occhi vedenti, come si dice, Sabrina. Bravissima. dimagrita di 15 kg, ma ha preso proprio dal cambiamento del suo stile di vita una nuova energia, anche la voglia di iniziare a correre. Bravissima Sabrina, ha fatto delle ottime scelte. Tra l'altro la perdita di chili lenta e continuativa è quella che assicura con maggior probabilità il fatto che i chili non si riprendano subito dopo, quindi bravissima. Prima dei consigli del dottor Ongaro sentiamo Enzo da Salerno e subito dopo Giovanni da Ragusa. Enzo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a dottor Ongaro. Eccoci. Buongiorno. Senta, io prima volevo rispondere alla quantità di cibo che si ingerisce in età di 80 anni. Io penso che siano 40 tonnellate. Poi volevo chiedere una cosa al dottore Ongaro, se è possibile. Sì. Dunque, io ho 65 anni, peso 1,72 e da 20 anni sto seguendo la famosa dieta mediterranea, quindi con tutti i vantaggi che certamente essa porta. Certo. E mi sono accorto che in questi 20 anni io ho peso 72 kg sempre, quindi non ho mai sgarrato né all'indietro né avanti, è un fatto positivo. Oppure, non lo so, no, io credo di sì, perciò volevo la conferma da parte del dottor Ongaro. Allora, Enzo, dottor Ongaro. No, è un fatto. Intanto diciamo che ha detto, che ha dato la risposta corretta. Bravo, bravo, bravo, Enzo. Esatto. Quindi mangia che ti passa. Ecco, e pensate che cosa vuol dire, solo un secondo di riflessione, 50 tonnellate, 40, 50, 60 tonnellate di cibo, sono oltre 90.000 pasti che noi assumiamo, pensate che cosa significa se il cibo che entra nell'organismo è quello sbagliato, è come fare veramente il pieno... È come mettere la sabbia, esatto, nel serbatoio, come lei scrive nel suo libro. Esatto, tornando invece alla permanenza, diciamo, attorno ad un peso specifico, direi che è un fatto positivo, significa che lei ha trovato il bilanciamento energetico corretto. Farei soltanto una piccola nota: attenzione che nella dieta mediterranea, anche lì, se interpretata male, i carboidrati sono troppi e non è specificato che tipo di carboidrati siano. Quindi attenzione, perché gli studi che mostrano certamente la positività della dieta mediterranea sono molto specifici nel dire moderate quantità di carboidrati, soltanto ricchi di fibra. Giovanni da Ragusa. Lei praticamente ha svelato. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Desideravo rispondere al secondo quesito e anche porre una domanda. Sì. Dunque, secondo me ai carboidrati raffinati ciò che manca e che invece hanno quelli integrali sarebbero le fibre. Bravissimo. Bravo. Grazie. Bravo. E quindi mangia che ti passa, Giovanni. E il quesito? No, sì, le hanno domanda... fatto l'applauso, ma glielo faccio io. Bravo, Giovanni. Grazie. Dunque, il quesito riguarda l'osteoporosi e i latticini. In una trasmissione televisiva il dottor Ongaro tempo fa ha affermato, se non ricordo male, che gli unici paesi al mondo in cui non c'è osteoporosi sono quelli in cui si consumano scarse porzioni di latticini. E questo contraddice le affermazioni correnti dei medici. Allora, la cosa mi interessa perché io non amo il latte, ma lo consumo proprio per ostacolare l'osteoporosi. Desideravo chiedere al dottore di specificare. Il latte non è l'unica fonte di calcio. No, certamente è un tema controverso e dibattuto. Diciamo che i medici si dividono in due categorie: quelli che credono ancora molto a questo discorso del quantitativo di latte, e altri che si sono aperti un po' a una visione differente. Io quello che sottolineo semplicemente è che il latte e derivati sono dei cibi sul piano evolutivo nuovi che si sono presentati nella dieta dell'uomo tardi, 10.000 anni fa circa, che in termini genetici evolutivi sono veramente poco, quindi secondo me non devono stare al centro dell'alimentazione umana, e io credo molto anche nelle fonti vegetali eventualmente di Diamone calcio. Diamone alcune di fonti vegetali di calcio. Ma io direi soprattutto una cosa molto semplice, è quella di dire che quando si sostituisce chiaramente il latte e i derivati con delle versioni vegetali, che può essere il latte di soia, può essere il latte di riso, questi sono tutti arricchiti di calcio, quindi il problema non c'è. E poi sì, il calcio c'è anche nelle verdure, quindi direi che nel caso dell'osteoporosi io farei anche attenzione ad altre cose, che è il quantitativo di vitamina D, che viene soprattutto da un'esposizione corretta al sole, il quantitativo di vitamina K, il movimento fisico, quindi non è soltanto un problema di calcio. Allora, noi siamo pronti per la terza domanda, mi sembra che possiamo mandarla in voce. Prima di dopo la domanda, scusate, mi stavo impaperando, noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, di che cosa avrò bisogno, quale alimento mi suggerisce per questi sbalordoni. 800 24 00 24, tra poco. Meglio le noci o lo yogurt? Essere e benessere. Avete sentito la domanda? 800 24 00 24. Abbiamo Alessandro che ci chiama da Roma. Buongiorno. Dell'incisione e le altre cose, è chiaro che sia. Alessandro, buongiorno. Solo, Irina, aspetta un attimo. Sì. Pronto? Buongiorno, ma con chi stava parlando, Alessandro? Io sono al lavoro, io sono un artigiano. Che cosa fa di bello? Io sono un orafo. Wow. Per quello parlava di incisione. Io pensavo fosse un chirurgo, vede? No. Va bene, Alessandro. No. Allora, Allora, il discorso è questo, nel senso, stavo sentendo questa cosa di questo libro che potrebbe essere molto interessante per me, e sperando insomma di riuscire ad averlo. E, il problema è questo, io ho un problema di epatite C. Sì. E sono leggermente sovrappeso. Mm. Volevo sapere insomma se c'era qualche buona indicazione per sistemare la mia dieta. Alessandro, allora lei si basi un po' sul piatto, vero dottor Ongaro? Oggi noi visualizziamo questo piatto distribuendo gli alimenti come il dottor Ongaro ci ha insegnato: verdura metà, un quartino di carboidrati, un quartino di proteine. Ma che cosa possiamo aggiungere in più? Beh, possiamo aggiungere il fatto che ovviamente in un soggetto che ha un'epatite c'ha un fegato sotto stress, un fegato in difficoltà, e noi sappiamo anche che il fegato è la centrale di smistamento a cui afferiscono i nutrienti per poi essere distribuiti nel resto del corpo. Il fegato è messo sotto stress anche da un'alimentazione estremamente artificiale, ricca di zuccheri, ricca di grassi saturi, quindi anche se non c'è una relazione diretta con l'infezione dell'epatite, mettere a riposo il fegato e aiutarlo nel suo lavoro di detossificazione dell'organismo è molto importante, quindi corregga quanto possibile l'alimentazione in modo tale da proteggere il suo fegato più a lungo possibile. Grassi, capitolo dei grassi, sono tutti uguali, ci sono dei grassi che invece dovrebbero entrare con più frequenza nella nostra dieta, dottor Ongaro? No, senza dubbio questo è un altro dei difetti delle generalizzazioni fatte nell'ambito nutrizionale, in cui ci hanno detto per molto tempo la dieta ipolipidica con pochi grassi è essenziale. Attenzione, perché i grassi sono di tipi molto diversi, alcuni grassi sono assolutamente indispensabili, addirittura benefici, altri grassi lo sono meno. Allora anche qua facciamo degli esempi pratici: l'olio d'oliva è un grasso benefico che porta delle sostanze all'interno dell'organismo che fanno molto bene, così come gli acidi grassi omega 3 che si trovano per esempio nel pesce, o che si trovano, tutti ormai li conoscono, come supplementi, famose capsule di omega 3. Viceversa, i grassi saturi, ma soprattutto i grassi idrogenati che si trovano spesso nei cibi processati industrialmente, questi sono grassi da tenere a bada. I saturi in piccole quantità, gli idrogenati meno ci sono meglio è. Quindi vede che se noi diciamo semplicemente riduci i grassi, fai una dieta ipolipidica, ma non distinguiamo quali, le persone sono portate a prendersi quelle calorie che tolgono dai grassi, per esempio dai carboidrati, quindi riducono i grassi e aumentano gli zuccheri. Questo è un po' quello che è successo purtroppo negli ultimi 20-30 anni, da quando si è parlato molto della riduzione dei grassi, senza però fare questa distinzione che è molto importante. Sì, è un dettaglio che fa la differenza, direi. Assolutamente. Michele, dalla provincia di Latina, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo chiedere, io da circa 15 anni faccio una dieta ipocalorica, un pasto unico, però prima facevo anche due spuntini di 4 quadratini per volta di cioccolato fondente, mi è venuta l'osteopenia. La questione chiaramente è, attenzione, perché la dieta ipocalorica non deve però essere iponutriente, ed è proprio qua anche la differenza tra una dieta ipocalorica classica e una dieta che si fonda sui principi della nutrigenomica. Cioè, al di là della ragione per cui può venire un'osteopenia, che sono tante, sono anche molto soggettive, ci sono dei fattori ormonali, la sedentarietà o meno, però attenzione, perché la dieta ipocalorica che diventa iponutriente, certo che nel tempo può portare a questi problemi. E quindi? E quindi seguiamo anche qua una regola più intelligente, che è quella non semplicemente di ridurre le calorie o la quantità di cibo, ma di selezionare quelli che servono da quelli che non servono, suddividerli proprio. Ci vuole una nuova lista della spesa, in poche parole. Che insomma, potremmo fare insieme nella prossima puntata, per esempio. Ongaro. Enrico, da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, Enrico. Ecco, allora volevo rispondere alla domanda sulle noci. Sì. Ovviamente sono le noci. Ovviamente sono le noci. Senza ombra di dubbio. Mi piace questo senza ombra di dubbio. Anche le mandorle, certo, i semi oleosi in genere, le nocciole. Ricchi di antiossidanti, di vitamina E, sono calorici ma portano calorie buone, tra l'altro saziano molto bene, quindi sono dei cibi sicuramente da prediligere, soprattutto come snack, merende nel corso della giornata. Quindi a metà mattina. Però posso chiedere una cosa al dottore, non ha detto esattamente quali sono le proteine da preferire. Ma allora guardi, qua si apre un tema complicato, diciamo che in linea teorica sarebbe il pesce, il problema del pesce è sicuramente quello della qualità, quindi bisogna selezionare dei pesci pescati possibilmente in mari puliti e non allevati. Questo, è molto difficile, certo. Oggi è molto difficile, però non è del tutto impossibile, io prediligo molto i pesci di piccola taglia, lo sgombro, le sarde, le sardine, costano poco, sono sempre pescati e quasi sempre nostrani, quindi questo al primo posto. Poi inserite anche tranquillamente i legumi, che sono delle proteine vegetali buone, le carni magre anche qua selezionandone la provenienza, e non demonizzate le uova, perché anche le uova possono rientrare tranquillamente in un'alimentazione bilanciata e corretta. Quante ne possiamo mangiare di uova? Ma adesso tranquillamente ci si orienta verso le 4-5 alla settimana senza problemi. Allora io per chi ovviamente non ha dei problemi, certo, particolari, un'ipercolesterolemia forte eccetera. Mi piacerebbe far sentire una domanda che ci fa chiudere in bellezza, perché parla di cioccolata fondente, di frutti di bosco, di caffè, di tè verde. Cosa hanno in comune cioccolata fondente, tè verde, caffè e frutti di bosco? 800 24 00 24, dottor Ungaro. Allora, siamo quasi in chiusura di trasmissione, ci ha promesso che ci porterà a fare la spesa, per cui ci daremo appuntamento anche sul nostro profilo Facebook per seguire i nostri ascoltatori a scegliere gli alimenti giusti. Riassumendo, cosa ci portiamo a casa da questa puntata, nell'attesa che un ascoltatore ci risponda in modo corretto alla nostra domanda? Allora, sicuramente il piatto, quindi sì, prediligere questo approccio del piatto unico, sicuramente la riduzione di tutto quello che è la parte di zuccheri raffinati, il passaggio da carboidrati raffinati a carboidrati integrali, quindi scegliamo quelli ricchi di fibre, l'aumentare le quote di verdure e utilizzare come spuntini e snack per rompere la fame senza dover andare verso cibi industriali raffinati, noci e frutta secca. 800 24 00 24, non ce l'avete fatta, scriveteci sul nostro profilo Facebook in modo che la risposta giusta riceverà a casa il libro Mangia che ti passa. Già il titolo mi piace, Mangia che ti passa, ma mangia per prevenire anche. Sì, certo, ti passa nel senso che ha anche delle proprietà curative, un'alimentazione corretta, però certo, però la prevenzione è la cosa più importante. Possiamo giocare d'anticipo, devo salutarvi, grazie al dottor Ungaro, grazie a voi che ci avete chiamato numerosi, a Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica e come sempre a Laura Vanossi in redazione. A domani. Essere e benessere.